Soffri di mal di testa, nevralgie, cefalee, difficoltà nei rapporti umani? Non ti si mette in moto la macchina? Perdi capelli? Hai il lavandino che perde? Nuoti male in piscina? Allora risolvi tutti i tuoi problemi con l'elisir del dottor Meazza, l'elisir che ti cambia la vita a soli euro 19,90. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Sai che ti dico? Sì. Che faccio lo sciopero dello yogurt greco, così imparano. E anche quello della feta ti suggerirei io. Sì, non che mi piaccia particolarmente. Per lo yogurt sono un po', sarei un po' più in difficoltà a fare lo sciopero. Ma per Ripica rinuncia. È una rinuncia. E quindi torno naturalmente al tradizionale yogurt italiano. Allora, tutto questo per perché? Sì. Perché questa rappresaglia, questo boicottaggio? Per la notizia frufru della giornata. Allora, ci vorrebbe un certificato per dimostrare che le forme di formaggio prodotte a Cremona sono esenti dal virus, altrimenti dalla Grecia sono pronte a rimandarli indietro, a rimandarle indietro. La psicosi del coronavirus colpisce anche un big come il Grana Padano, uno dei simboli più noti del Made in Italy all'estero. Il prodotto DOP, più esportato al mondo, con oltre 2 milioni di forme vendute ogni anno sui mercati esteri. E questo sarebbe ovviamente fra le varie ricadute di questa crisi mondiale. Abbiamo anche le problematiche per le fattorie Cremona, 90 soci conferitori, 220.000 forme di grana padano prodotte ogni anno. La richiesta formale dagli agenti greci è arrivata già lunedì mattina, pronti via dopo il weekend un po' difficile che abbiamo vissuto qua in Lombardia, e pensare che l'azienda non è neanche dentro la zona rossa dei focolai lodigiani, però si sono subito adattati appunto alle richieste. Gli imprenditori del posto dicono di essere stati immediatamente disponibili a firmare tutti i documenti necessari, però non ci è sembrata molto carina questa notizia, perché quando c'è stata la crisi drammatica del debito greco era un'altra crisi, io lo capisco benissimo, però noi siamo andati tutti in vacanza là, pronti a sostenere quell'economia, e quindi non mi è piaciuta molto questa forma di boicottaggio. No, per niente. Ma guarda, il virus, diciamo, non conosce confini, ma forse anche la psicosi non conosce confini. Parleremo più avanti in questa puntata dei reati da psicosi, perché attenzione a mettere cose farlocche sui social piuttosto che a speculare sui prezzi, perché il codice penale comunque ci guarda, non magari non come l'IVA, come diciamo talvolta, ma anche il codice penale ci guarda. Dicevo, la stupidità però non conosce confini. Ad esempio c'è il caso della birra Corona, ecco. Marchio colpito dal coronavirus, perché da quando c'è questo coronavirus che è diventato argomento di massa a livello mondiale, viene da dire, e questa volta non è purtroppo la nostra ironia quando definiamo i nostri esperti di valore mondiale, ebbene in rete sono comparsi dei meme, cioè sono delle immagini in movimento che lo associano, che questo virus, alla birra Corona. È uno scherzo naturalmente, era il tentativo anche di sdrammatizzare, ma invece è diventato un problema vero, perché questa associazione ha fatto sì che sostanzialmente il titolo della birra Corona abbia perduto terreno alla borsa di New York, e pur non avendo alcunché in comune con il virus, però soltanto il nome, purtroppo si chiama così la birra, e c'è una sorta di sovrapposizione tra la birra Corona e il coronavirus, due cose che non c'entrano nulla, ma così come un po' il grana padano che si richiede virus free da parte degli importatori greci, e così anche per la birra Corona. Cara Deborah. Sì, no, visto che stiamo parlando di generi alimentari, nell'ultima parte della trasmissione, visto che ci aveva incuriosito un po' anche il dibattito che si era spontaneamente scatenato su WhatsApp quando qualche giorno fa abbiamo dato la definizione da codice penale del reato di accaparramento, ci torniamo perché siamo stati un po' imprecisi nelle questioni giuridiche. Sono stato impreciso. No, anche io ero qua e quindi non potevo supportarti anche nella corretta definizione appunto della tipologia di reato, nella fattispecie di reato, ma il punto è che in realtà qua queste questioni un pochino stanno continuando. Allora volevamo indagare proprio nei meandri giuridici del tema. Se andiamo al supermercato un po' spaventati da quello che sta succedendo e vogliamo portarci a casa tutte le forme di grana padano che non vogliono più comprare i greci, in realtà è un comportamento che può essere addirittura perseguibile se e quando può succedere tutto questo, e quindi ne parleremo. Ma non sarà solamente questo un tema che affronteremo stamattina, parleremo anche della difficile situazione in cui si trovano non solo le famiglie ma anche i nidi in Lombardia, perché ci sono anche ricadute a questo livello. Nella prima parte della trasmissione invece torneremo sulla questione che abbiamo già affrontato, per chi nell'immediato, io non vorrei scatenare qua adesso la questione fra chi sta organizzando le ferie per luglio e agosto, occupiamoci delle persone che devono partire a breve, i cui viaggi stanno saltando e devono capire se tour operator, compagnie aeree, le ferrovie o chi altro può o deve rimborsare, a prescindere dal fatto che ci siamo assicurati o meno contro queste eventualità. E quindi ritorneremo anche su questo grande tema. Una puntata ricchissima. Molto molto ricca, andiamo veloci con il nostro giornale radio del risparmio, che ovviamente contiene altre notizie sempre un po' legate alle ricadute domestiche, alle ricadute spicciole di questo coronavirus, e anche però un pochino qualcos'altro magari, se lo troviamo ve lo diciamo sempre volentieri. Giornale radio del risparmio. Deborah Rosciani e Mauro Massa risolvono tutti i problemi di cassa. Il tuo è un rosso relativo, senza macchia d'amore. Quando sento Tiziano Ferro mi viene solo in mente l'imitazione che ne fa Crozza della sua esibizione a Sanremo, dove è scoppiato in lacrime cantando Mia Martini. Scusa, ma un'associazione con la quale spero di aver regalato un sorriso ai nostri ascoltatori stamattina. Chiudiamola qua. Di allora, intanto parli? Possono tirare un respiro di sollievo relativo, appunto, con la mascherina o senza, coloro che stanno negli 11 comuni definiti zona rossa. Sono i 10 comuni dell'Lodigiano, oramai li conosciamo, e il comune in provincia di Padova, di Vo. Allora, perché possono tirare un sospiro di sollievo? Perché arriva per loro, solo per questi comuni della zona rossa, attenzione, arriva una sospensione di 6 mesi per il pagamento delle bollette di acqua, energia e rifiuti, rinvio a fine luglio per i premi RC Auto, rinvio per i diritti camerali da parte delle imprese, potenziamento del fondo di garanzia per le PMI. E poi, oggi scade la rata della rottamazione, ne abbiamo parlato qualche giorno fa proprio qui a Due di Denari con Luigi Lovecchio, la scadenza è 28 febbraio, però attenzione, per tutti ci sono 5 giorni di tolleranza, quindi siete tempestivi anche se pagate nei primi giorni della prossima settimana. E per la zona rossa in particolare poi ci sarà un provvedimento ad hoc che andrà a prorogare molto più in avanti questa scadenza. Il tutto è contenuto in un decreto legge, è annunciato, pardon, in un decreto legge che il governo dovrebbe varare tra oggi e domani, quindi restate in ascolto, restate alle edicole con il Sole 24 Ore, in ascolto con Radio 24, vi aggiorneremo momento per momento. E tu fino a quando non lo vedrai scritto in Gazzetta mi starai nervoso per tutto il tempo, sarai insopportabile in questi giorni. Spero che lo mandino già subito domani, perché altrimenti poi il sabato resto disturbato, cara Deborah. Allora, dopo tutte le iniziative intraprese dal mondo bancario in via individuale e spontanea, in attesa anche in questo caso credo che venga varato un pacchetto di misure di sistema con l'iniziativa appunto complessiva dell'ABI, adesso stanno partendo anche le compagnie di assicurazione. Il gruppo Allianz Italia ha reso noto di aver adottato un piano di misure a sostegno della clientela residente nei comuni delle zone rosse e focolaio del virus. Il piano a supporto dei clienti e delle agenzie assicurative interessate prevede una serie di misure, come vi dicevo, tra queste l'estensione del periodo di mora di 45 giorni per le polizze RC Auto, la sospensione delle azioni di sollecito dei pagamenti e altre ulteriori facilitazioni per i contratti auto, rami vita e rami vari. La compagnia si è immediatamente attivata a sostegno delle agenzie situate nei comuni interessati per offrire anche assistenza ai clienti in collaborazione con gli agenti del territorio, grazie anche all'ecosistema digitale che ormai un po' caratterizza tutta l'attività di assicurazioni, banche e quant'altro. C'è anche la notizia che ci ha segnalato poco fa, fresca fresca, Marco Lombardo, su quello che sta accadendo a Pordenone. Magari sarebbe interessante poi questa notizia commentarla con il nostro primo ospite di questa mattina. Eh sì, perché la Guardia di Finanza di Pordenone sta controllando i prezzi di vendita delle mascherine protettive e dei gel igienizzanti nelle farmacie lì della provincia di Pordenone, perché diversi clienti hanno segnalato degli ingiustificati rialzi dei prezzi di vendita delle mascherine. Quindi se adesso la Guardia di Finanza si sta muovendo. Hanno chiesto uno slittamento, a proposito di proroghe varie, anche gli appartenenti di Assindat Colf, cioè le famiglie, l'associazione che rappresenta i datori del lavoro domestico, quindi parliamo di colf, babysitter, badanti, hanno chiesto al governo che anche per le famiglie che hanno una collaboratrice domestica, un collaboratore domestico, una badante, una babysitter, che in queste settimane ovviamente si trovano alle prese con l'emergenza coronavirus, ci sia un provvedimento con slittamenti e agevolazioni per quanto riguarda i vari obblighi connessi al loro ruolo. Tra l'altro, ovviamente, il datore di lavoro domestico è un datore di lavoro un po' particolare. Cara Deborah, sì, è anche particolare la lamentela che è arrivata al nostro sportello. Mauro, vogliamo ascoltarla? Certo. Dillo a due di denari. Sì, buongiorno, sono Anna, chiamo da Udine. Ci siamo resi conto che questa pazzia del coronavirus ha bloccato perfino le donazioni alimentari, nemmeno il banco alimentare consegna più nulla. E noi non sappiamo più che cosa mettere nel piatto dei nostri poveri. Parlo con cognizione di causa, essendo una volontaria in una parrocchia di Udine, siamo in grosse difficoltà. Chiediamo cortesemente un suggerimento, se sapete qualcosa voi, noi vi ringraziamo di tutto cuore, vi siamo grati per l'attenzione. Grazie infinite, saluti. Ma adesso non vorrei dire una cosa inesatta, credo che a Milano, per esempio, in qualche maniera il supporto alle persone in difficoltà sia arrivato anche dalle mense universitarie, laddove non distribuivano più i pasti per la chiusura appunto dell'università ci sia stato questo. Però mi devo documentarmi meglio, non vorrei dire un'inesattezza. So per certo che questa emergenza ha spinto a Milano il Pane Quotidiano, la storica associazione milanese che assicura ogni giorno gratuitamente cibo alle fasce più povere della popolazione, a sospendere le distribuzioni nelle sue due sedi. Le attività, salvo diverse indicazioni, dovrebbero riprendere lunedì prossimo. E allora invitiamo anche gli ascoltatori, se hanno ulteriori indicazioni su questa materia, a contattarci. I numeri li conoscete. Parliamo tra pochissimo di viaggi, tra un po' più in là nella puntata parliamo di reati da psicosi, quindi questi rialzi ingiustificati dei prezzi e altro ancora. I numeri sono sempre quelli, se volete anche comunicarci questioni riguardanti appunto la distribuzione del cibo ai soggetti più deboli, 800 24 0024 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp. Tutto ciò premesso, andiamo con il primo argomento. Ritrovato, l'avevamo promesso, anzi gli avevamo molto gentilmente chiesto di tornare con noi in questa puntata, l'avvocato Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori. Buongiorno avvocato, ben trovato. Ben trovati a voi e grazie, sono felice di ritrovarvi. No, stavo peraltro ragionando poco fa, facendo questa lista di notizie questa mattina, di quanti temi nuovi in questi giorni devono occuparsi le associazioni dei consumatori. Con lei volevamo ritornare a fare un focus su chi deve annullare, cancellare i propri trasferimenti in questi giorni, non solo peraltro per ragioni di viaggio, ma magari gli spostamenti sono anche di natura professionale, magari le tutele sono diverse, però effettivamente siete probabilmente stati investiti da questioni nuove. Avrebbe mai pensato di doversi occupare dell'esplosione dei prezzi delle mascherine in farmacia? Ma devo dire che non del tutto nuove, purtroppo, nel senso che alcuni fatti, naturalmente sempre mi riferisco a fatti così importanti, l'11 settembre ormai è passato molto tempo, però la guerra del Golfo, tutte storie che hanno raccontato di speculazioni, alcune più appariscenti, altre magari raccontate mediaticamente, ma sicuramente il consumatore purtroppo non è nuovo a queste difficoltà, e le disdette turistiche, ahimè, sono invece un fatto abbastanza ricorrente. Penso a quello che è accaduto nel Nord Africa, che ha causato disdette turistiche negli ultimi anni molto molto diffuse. Avvocato Dona, ovviamente qui già gli ascoltatori ci stanno giustamente segnalando le varie situazioni. Stiamo sulla vicenda dei viaggi. Sì. Ci scrive un ascoltatore, Ludovico, a proposito dell'annullamento di voli alberghi. Mio padre e mia madre, due persone diciamo diversamente giovani, lui segnala 82 anni l'uno, 79 l'altra, dovevano venire oggi a Milano, ma vista la gravità del coronavirus e la loro età, da una settimana abbiamo preferito non farli partire, sia la compagnia aerea che l'albergo non hanno rimborsato. A me invece risulta di altre circostanze sul territorio, ieri me l'hanno raccontate degli amici, hanno avuto dei rimborsi seduta stante rispetto a dei viaggi, appunto delle permanenze in altre regioni d'Italia, quindi neanche parlo della Lombardia, a cui hanno rinunciato e gli alberghi hanno rimborsato immediatamente. Quindi in realtà c'è anche qui la macchia molto di leopardo. Infatti. Dona, ci riepiloga la regola generale? Ma intanto confermo, Deborah, che effettivamente anche noi abbiamo avuto degli atteggiamenti molto molto disponibili da parte di aziende, di compagnie, di albergatori, perché il punto in ultima analisi è che non si può pensare di salvare il salvabile costringendo il consumatore, diciamo così, a sobbarcarsi la sua parte di danno. La regola generale è che se c'è un impedimento oggettivo al viaggio, seppur questo non è ascrivibile chiaramente all'albergatore e alla compagnia aerea, ma tantomeno può essere ascritto al consumatore, perché tra la piccola impresa o la grande compagnia da un lato e dall'altra parte il singolo cittadino, chiaramente quest'ultimo merita una tutela in più. Tra l'altro i viaggi sono ancora oggetto di una tutela europea molto forte. Chiaramente una cosa è un pacchetto turistico, una cosa è l'acquisto del singolo servizio, ne abbiamo parlato tante volte anche con voi, nella prima situazione sono più tutelato perché c'è una legge europea anche più efficiente, nel caso del singolo albergo o della singola tratta acquistata è tutto più complicato, ma la regola è comunque di vantaggio per il consumatore. Il consiglio pratico da attuare è una richiesta di rimborso che si giustifichi rispetto all'emergenza. Il caso che raccontavate voi di due persone anziane destinate a Milano è sicuramente rientrante in questo caso, ma noi abbiamo come Unione Consumatori anche testimonianza di disdette non proprio necessitate, cioè gente che non è più nello spirito giusto per partire. È chiaro che qui da rappresentante dei consumatori devo dire che forse queste hanno meno tutela, giustamente anche da un punto di vista giuridico. Si ricorderà, esatto, emergenze. Abbiamo invitato al buonsenso proprio su questo anche un paio di giorni fa, toccando il tema dei viaggi, già in tanti avevano cominciato a scriverci per le mie vacanze di agosto, che cosa faccio se cancello diritto ad un rimborso o meno. Io direi che adesso vediamo di far ripartire un po' tutto il quadro economico generale, mettiamoci tutti d'impegno con senso di responsabilità anche per dare un supporto emotivo a chi è davvero in una condizione problematica in questo momento. Poi penseremo alle nostre vacanze estive. Abbiamo un inviato specialissimo. Caspita, me lo dici così. Dai, che te l'avevo detto anche prima. Noi abbiamo un amico che è Gianfranco Giardina, direttore del portale D-Day, ci aiuta sempre a orientarci nelle questioni tecnologiche. È in Israele in questi giorni. Lui è partito domenica e ci ha chiamato dicendoci: fatemi un po' raccontare quello che succede, perché non è così problematica la situazione qua come quella che viene dipinta. Però lui è partito domenica e quindi questo c'è anche e da sottolineare. Quindi prima dei vari blocchi minacciati o attuati. Esatto. Sentiamo. Ma vista negli occhi, diciamo, di un turista o comunque di un italiano in giro per Gerusalemme, la situazione non sembra assolutamente particolare. Quello che si percepisce sicuramente è che c'è interesse da parte delle autorità a sapere da dove ogni turista, ogni passante viene, nei checkpoint che sono nella città, dove bisogna comunque registrarsi e farsi controllare per entrare per esempio nelle aree considerate sacre. Quando ci si qualifica come italiani, sicuramente c'è un livello d'attenzione, ma si passa perfettamente, non c'è una necessità di andare in quarantena, non viene segnalata, siamo registrati in un grande hotel del centro come italiani e nulla c'è stato segnalato, quindi direi che la situazione vista da qui appare decisamente tranquilla. Allora, un po' più di tranquillità ci riferisce Gianfranco Giardina nella testimonianza raccolta da Marco Lombardo. Avvocato Dona, lei ha fatto prima la distinzione tra il pacchetto turistico e il, diciamo, il singolo importo per acquistare, che so, il viaggio aereo o il biglietto del treno. perché effettivamente nel pacchetto turistico c'è una direttiva che è molto di protezione del consumatore, e quindi diciamo che questo tipo di pacchetto dovrebbe essere quelli che quando abbiamo comprato un po' tutto insieme da un tour operator, mi pare di capire siano questi i casi, Dona. Sì, assolutamente, sono questi i casi. La tutela principale che ci offre questa direttiva europea oggi nel codice del turismo è di avere un unico referente, cioè invece di dover disdire in questo caso specifico l'albergo, la compagnia aerea e gli eventuali periodi dell'auto a noleggio e tutti gli altri servizi accessori, mi riferisco ad un unico soggetto che generalmente è vicino a me, cioè in Italia, cioè il tour operator o addirittura l'agenzia che mi ha venduto il viaggio, e sarà poi quest'ultima a avere i rapporti con i singoli fornitori. Mm-hmm. Viceversa, se ho comprato o se ho prenotato io, il classico turista fai da te potremmo dire, da solo l'hotel o la compagnia, posso avere a che fare con un hotel che è a Londra, che è negli Stati Uniti, o una compagnia aerea che non ha sede legale in Italia, e quindi è tutto più complicato. In ogni caso, a entrambi suggerirei di scrivere, come dicevamo prima. L'altro vantaggio dei pacchetti turistici è che di solito offrono delle polizze annullamento che costano poche decine di euro e che noi come Unione Consumatori consigliamo sempre, certo, di stipulare. Tra l'altro ci sono poi anche dei casi ulteriormente complessi, ibridi potremmo definirli, perché un ascoltatore o un'ascoltatrice, non so, non si firma, ci racconta: se si viaggia con grande compagnia aerea italiana, non dico il nome ma avete capito, a proprie spese, ma per partecipare ad un evento di lavoro, consigliate eventualmente nella richiesta di rimborso di allegare anche la decisione di annullamento evento dell'azienda, perché qua non si tratta di aver annullato la prenotazione perché mi sono spaventato e non voglio più viaggiare, ma proprio perché la ragione per cui del intenzionato viaggio esatto. Il salone di Ginevra, per dire, quello l'abbiamo appena sentito nel giornale radio, è stato annullato, quindi io annullo il viaggio, e quindi Dona che diritti posso avere? No, direi che il motivo principale da addurre è quello dello sconsiglio o del divieto, ad esempio, di accedere in un determinato paese. Abbiamo sentito di Mauritius, di Israele o altre situazioni. Perché il singolo evento può essere stato annullato per mille motivi. Ecco, il Salone di Ginevra non è coinvolto direttamente, ma chiaramente essendo un luogo dove arrivano da tutti i luoghi, gli organizzatori hanno deciso per loro ragioni di annullarlo, ma il singolo appuntamento, il singolo evento non sono il vero motivo per cui io posso chiedere il rimborso alla compagnia. Torniamo alla distinzione che facevamo prima: se devo uscire da una zona e sono interdetto all'uscita, o se devo andare in una zona che è stata colpita da un ufficiale, diciamo così, provvedimento restrittivo, ho tutti i diritti di essere rimborsato. Viceversa, le situazioni vanno valutate caso per caso. Lei consiglia sempre di mandare una email, vero? Per quasi come atto interruttivo, lo chiamate voi avvocati, giusto? Certamente sì, più che altro dalla prova, ben prima di essere, diciamo, al momento della partenza, di questa richiesta, e questo congela le cose, se ne può discutere anche dopo diciamo, la data prevista di partenza. Se dovessi partire in questo weekend, io scriverei oggi, anche se non mi rimborsano da qui a domenica, posso poi con l'aiuto di un'associazione dei consumatori e di un avvocato andarne a discutere. Ma poi è anche ragionevole che pensare che ci possano voler dei giorni. Ieri Sergio Nava ci raccontava che per aver annullato il biglietto con cui doveva partire nel weekend per andare in una città italiana, in realtà la compagnia ha attivato il procedimento ma non ha avuto una risposta istantanea dal suo profilo online, appunto attivato personalmente con questa compagnia. Ha visto che il viaggio è stato revocato, ma non è che in automatico gli è già stato dato il bonus, al call center gli hanno detto le arriverà nei prossimi giorni, quindi diamo anche modo a questi operatori di lavorare, visto che adesso sono intasati dalle richieste di tutti. Allora, bene, grazie. Bisogna avere un po' di pazienza. Esatto. Grazie a voi. Grazie a Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale dei Consumatori. Cara Deborah, sì, la giornata... Voglio, sì, però voglio, con un ghigno anche un po' malefico, voglio anticiparti che in una giornata abbastanza difficile per i mercati, a Piazza Affari c'è un solo titolo positivo e guadagna anche benino. Una squadra di calcio? Sì, c'è una bellissima maglietta bianconera. Cioè, quindi già ci devi dare delle notizie di cali pronunciati, robusti. Sì. In più mi devi anche dare questa notizia. Ma questo è un ottimo segno, guarda, lo voglio così, considerare un ottimo auspicio. Questa giornata chiuderà meglio di come sta andando adesso. Sì, una giornata in bianco e nero. Relazionaci, Deborah, le borse. Andiamoci piano con questi messaggi, eh. Siamo sempre un programma di... Due di denari. Non mi dico te, una a te, una monetina pure a te, così fanno tre, una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. Ma cosa se ne fanno delle proroghe se non incassano i soldi? Si tratta solo di pagare quando arrivi il momento, quello che c'era da pagare prima più quello che ci sarà da pagare, quindi somme più alte da pagare tutti in una volta. Se non incassano, cosa se ne fanno delle proroghe? Cominciare con il sirtaki, tanta roba, eh. Ma tutte ste notizie ci fanno capire che la pandemia c'è già in atto da mo, perché c'è la pandemia di deficienza. La gente non ha ancora capito che i virus ci sono, girano e fanno il loro lavoro e poi tutto si assesta. Perciò purtroppo la paura fa 90 e sta facendo dei danni enormi. Cioè siamo proprio terrestri, esseri minuscoli che si cagano addosso per nulla. Dottor Meazza, quelle, le immagini in movimento sono le GIF, i meme sono un'altra cosa. Saluti. E niente, se tu stai ancora nel mesozoico e non sei adeguato a stare sui social, non avventurarti utilizzando dei concetti. Pensa che io volevo aiutare quelli che come me stanno nel mesozoico, ero convinto di dire qualcosa di utile e invece ho detto una cosa sbagliata, va bene. Allora invece vorrei aiutare anche un altro ascoltatore, un'ascoltatrice, no, non lo sappiamo, ascoltatore, un genitore che dice: sicuro? Buongiorno, ma per la chiusura degli asili nido privati si può chiedere il rimborso per questi giorni di chiusura causa coronavirus? Sto in Lombardia, zona gialla, ricordiamo, sono le regioni che del nord Italia, praticamente tolta la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, zona gialla perché appunto sono in atto dei provvedimenti di restrizione. E allora noi abbiamo girato questa domanda sui nidi. Sì, chissà quante se ne sarà sentito già fare in questo senso. Sì. A Paolo Uniti, che è il direttore di Assonidi, associazione asili nido e scuole dell'infanzia privati, che è aderente a Confcommercio qui di Milano. Buongiorno dottor Uniti. Buongiorno a voi. Com'è la situazione? Perché appunto i genitori chiederebbero dei rimborsi, però immagino che anche per gli operatori che offrono il servizio dei nidi privati sarà difficile avere degli introiti se gli asili restano chiusi. Anche perché non è che potete evitare di pagare una settimana di sospensione dell'attività appunto in termini di stipendio ai vostri dipendenti. Diciamo che ha centrato quello che è la problematica adesso, quella più di attualità, nel senso che l'equazione pagamento rette, pagamento stipendi, pagamento contributi, pagamenti tasse locali, canone di affitto è strettamente collegata per un settore come il nostro che è fatto da microimprese. Questo sì, effettivamente è un problema. Riguardo poi la domanda specifica del genitore, va visto il contratto, il più delle volte comunque i gestori vengono sempre incontro alle famiglie, in particolare in questo momento. Certo. Senta, ma avete delle notizie rispetto alla riapertura delle vostre strutture? Che cosa aspettiamo adesso, un altro provvedimento della regione? Perché si sta ipotizzando di far ripartire il sistema scolastico globalmente lunedì. Sì, certo. Noi ovviamente quello che diciamo comunque a tutti, il settore è pienamente in sintonia con quello che sono le disposizioni dello Stato e della Regione, e quello prima di tutto la sicurezza. Quindi quando le istituzioni riterranno che è il momento di aprire, noi siamo pronti, magari anche con delle misure particolari visto il momento, quindi con una maggiore attenzione, ancora di più con una sanificazione fatta anche durante le ore di apertura, un accoglimento all'interno delle strutture a questo punto misurato, quindi non una folla di genitori che viene a prendere o a ritirare i bambini, un utilizzo magari più attento degli strumenti di gioco e quant'altro, quindi con maggiore pulizia che c'è già, ma accentueremo questo, quindi noi siamo pronti, nel senso che noi siamo pronti, fermo restando che comunque è giusto prima di tutto la sicurezza, la salute pubblica prima di tutto. Sicuramente, ma secondo lei ci saranno delle strutture, che siano vostre associate o meno, in grado di ripagare le famiglie di questa settimana di sospensione? Qualcuna potrà prendere autonomamente questa iniziativa? Guarda, oppure noi come sempre sempre ci stiamo fiduciosi della, diciamo, del senso di responsabilità sia delle famiglie e sia dei nostri gestori, perché adesso vabbè c'è l'emergenza coronavirus, però ci sono altri episodi quando il bambino infatti può star male, a volte ci sono, diciamo, la contrattazione delle parti, rimane all'intelligenza delle persone. Bisogna capire che se le restrizioni vanno avanti è chiaro che il nostro settore non può, anche perché non ha gli strumenti peraltro normativi per poter avere degli ammortizzatori sociali. E cioè, quindi l'educatore va pagato, quindi è chiaro. Io direi che adesso è presto per parlare, diciamo, del problema della rete. Il problema si pone, diciamo, su un'altra, sulla continuità del periodo, certo, ovviamente di emergenza, questo sì. Adesso stiamo parlando di 5 giorni, lì ci rimettiamo al senso di responsabilità di ambedue le parti, perché comunque il mese di febbraio si è praticamente concluso, il problema è sul mese di marzo, quello sì, ma è un problema che poi investe pesantemente. Parliamo di microimprese. Certo, vedremo se nei provvedimenti che il governo dovrebbe prendere proprio in questo fine settimana di sostegno all'economia rientreranno anche questo tipo di attività, quanto sarà estesa. Accettato il problema, nel senso che noi abbiamo fatto un comunicato per ricordare, perché quando si parla di scuola, quando si parla di servizi all'infanzia, cioè normalmente il legislatore, comunque anche l'opinione pubblica, fa riferimento al servizio pubblico. Le cito l'esempio della Lombardia. Nella Lombardia il 70% dei posti è offerto dai nidi privati, cioè nel senso che il 70% delle attività è fatto da strutture private di servizi all'infanzia, quindi parliamo di numeri importanti. Certo. Noi offriamo come unità di posti 36.000 posti in Lombardia. Certo. Abbiamo 1.400 asili nido e scuole dell'infanzia. E d'altra sono parte, numeri importanti. D'altra parte, Deborah, sai che tutte le rilevazioni che vengono puntualmente condotte dal Sole 24 Ore, specialmente nel numero del lunedì, segnalano come non ci sono sufficienti posti negli asili nido. Quindi sì, abbiamo anche questo aspetto. Grazie, grazie dottor Paolo Uniti. Grazie a voi. E speriamo, sì, così vedremo quali misure adotterà il governo. Intanto io vorrei però introdurre l'avvocato Guido Camera. Buongiorno, sì, avvocato. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Perché in questi giorni di così psicosi un po' si sono verificati anche dei comportamenti che è bene ricordare sarebbero reati, quindi sono previsti dal codice penale e puniti dal codice penale. Allora, ad esempio, non so, accaparrarsi troppa roba può essere uno dei comportamenti puniti dal codice penale, ma così anche diffondere notizie false, ad esempio sui social, anche questo è un comportamento che viene previsto e punito dal codice penale. Avvocato Camera, noi adesso abbiamo le informazioni sul traffico, se ci attende un minuto torniamo subito e ci fa un repertorio delle cose sulle quali bisognerebbe avere più responsabilità. Grazie, traffico. Due di denari. Considerando che il prezzo del petrolio si è inabissato, per quale motivo il prezzo ai distributori è sempre più o meno lo stesso? Lo spread a 180 è dovuto alla questione borsa economica, e allora perché anche non negli altri paesi, o alla questione politica? Mi spiegate lo spread? Ha ragione l'ascoltatrice, perché in realtà ieri ha cominciato ad innervosirsi in concomitanza della salita al colle di Salvini. Questo devo dire che l'avevo notato e l'ho anche detto ad un collegamento di borsa ieri pomeriggio. Quindi restate in ascolto. Restate in ascolto anche sulla questione prezzi. Avvocato Guido Camera, avvocato penalista, esperto, anche collaboratore del Sole 24 Ore. Partiamo proprio dai prezzi, perché appunto alterazioni di prezzo si sono verificate. La Guardia di Finanza, l'abbiamo riferito, sta indagando a Pordenone. Non è qui che cosa, quali fattispecie, quali casi di reato si configurano e come potrebbero essere perseguiti? Sì, diciamo che il nostro codice penale prevede dei delitti contro l'economia pubblica, ma anche dei delitti specifici a tutela del commercio. Tra questi ultimi rientra sicuramente il reato, un delitto di frode nell'esercizio del commercio, che punisce la condotta di chi in un qualunque esercizio commerciale aperto al pubblico vende o consegna una cosa diversa per qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. È un delitto punito con il carcere fino a 2 anni, ma soprattutto è un delitto che può far scattare anche la responsabilità non solo della persona fisica ma anche della persona giuridica che gestisce l'esercizio commerciale e può essere punita ai sensi del decreto legislativo 231 del 2001 con una multa che può andare da un minimo di circa 26.000 euro ma nei casi più gravi può arrivare fino a circa 780.000 euro di multa, quindi diciamo delle sanzioni decisamente gravi. Del resto si tratta di una condotta pericolosa sia per la lealtà e la correttezza negli scambi commerciali ma anche per la tutela dei consumatori. Quindi la frode, questo è il caso di frode in commercio, ad esempio sì. Abbiamo visto, che so, gel assolutamente innocui spacciati magari per gel disinfettanti e cose del genere, purtroppo abbiamo letto anche di questi casi. Questo caso, lei ci ha detto, è assolutamente previsto, se accade uno può denunciare questo comportamento? Certo, deve, e devo dire nella mia esperienza professionale c'è anche una notevole sensibilità delle forze dell'ordine, insomma la Guardia di Finanza credo che sia un corpo altamente specializzato, ma anche i nuclei antisofisticazione dei carabinieri nel contrasto, tra l'altro è un reato di accertamento abbastanza semplice, basta sequestrare un esemplare della cosa venduta, fare una comparazione tra quello che è stato ceduto e quello che era stato dichiarato e pattuito e la prova può essere raggiunta in tempi ragionevolmente brevi, quindi senza necessità neanche di particolare dispendio investigativo. Lunedì scorso, avvocato, invece abbiamo naturalmente raccontato anche noi quello che è successo nel weekend nei supermercati milanesi con questa corsa al carrello a chi lo faceva più pieno, naturalmente con la preoccupazione che si aprisse una settimana problematica sul fronte degli approvvigionamenti alimentari, e quindi abbiamo scherzato e poi abbiamo capito che in realtà gli ascoltatori ne sapevano più di noi sul tema dell'accaparramento, e abbiamo capito che come singolo individuo, se compro magari 4 casse d'acqua, è difficile che possa essere perseguito da qualche autorità. Il punto è quando questo comportamento lo adotta magari chi opera pure nel contesto commerciale e, come dire, riempie un proprio carrello personale per andare poi a riempire il proprio esercizio. Adesso magari ci può definire un po' meglio anche questo tema alla luce di quello che si è registrato lo scorso weekend? Certo, anche qui nel nostro codice penale esiste una specifica fattispecie delittuosa, questo è un delitto contro l'economia pubblica, quindi non più contro il commercio come la frode, l'esercizio del commercio, ed è quello previsto dall'articolo 501 bis del codice penale, che punisce le manovre speculative sulle merci, quello che una volta veniva chiamato aggiotaggio, cioè una manipolazione annonaria dell'annona, che è la competenza sin dai tempi della annona degli antichi romani nella gestione degli approvvigionamenti. E questo che cosa colpisce la speculazione. L'origine di questi reati antichissima ed è soprattutto legata ai periodi di guerra. Questa norma è stata introdotta quando ci fu la crisi petrolifica a metà degli anni 70 ed era proprio finalizzata ad evitare delle speculazioni che anche qui da una parte consentissero un arricchimento ingiusto da parte di soggetti spregiudicati e dall'altra tutelasse proprio anche il bene pubblico. La condotta, diciamo, non c'è vuoto di tutela, nel senso che la norma punisce sia chi le manovre speculative volte proprio all'accaparramento, all'incetta o all'occultamento delle materie prime, ma anche chi, non avendo diciamo determinato ad esempio delle forme di rarefazione delle merci sul mercato di rincaro, comunque ne sottrae all'utilizzazione delle rilevanti quantità per un fine che è poi quello che ha giustamente indicato lei, che è quello di rivenderlo, di lucrare sostanzialmente, di lucrare. Nei casi più gravi però, diciamo, non mi sembra questo il caso, non dobbiamo dimenticare che esiste anche un delitto molto grave che è contro l'ordine pubblico, quindi non contro l'economia pubblica, ma proprio contro l'ordine pubblico, come può essere un reato grave come l'associazione per delitto, che è il saccheggio, che è l'articolo 419 del codice penale, che però si integra solo in casi gravissimi, cioè un impossessamento indiscriminato da parte di una pluralità di persone di rilevante quantità di oggetti, con una sentenza che ho trovato nel 1980, un'azione sorretta da spirito di assoluta prepotenza e noncuranza per l'ordine costituito. Non è il caso sì. di chi va a fare, perché è probabilmente spaventato, e qua forse introduciamo il tema dell'informazione, che credo sia molto importante. E adesso ci arriviamo, perché ci sta molto a cuore, come puoi immaginare, Avvocato Camera. Non è certamente il caso, scusi, e chiudo, di chi invece va spaventato e cerca di comprare di più quello che tutto quello che riesce, di portarlo a casa. Forse questo può essere un comportamento, devo dire, magari non molto attento alle esigenze della società, però difficilmente rientra in un reato, soprattutto laddove non è vietato da un'ordinanza dell'autorità amministrativa. Non può certo essere. Ma il singolo esercente o la catena della grande distribuzione può dire non consentiamo di acquistare più di un certo quantitativo? Ma con i Nutella Biscuits era successo, non oppure ricade poi nel reato di alterazione dei prezzi, eccetera? Ma allora, secondo me l'approccio deve essere sempre quello della ragionevolezza. Ora, io non credo che si possa imporre in alcun titolo ad un imprenditore privato di diciamo ridurre, contingentare le proprie merci al pubblico. Quindi da questo punto di vista non credo, né credo che si possa impedire all'imprenditore privato di limitare gli acquisti ai singoli, cioè no, tu hai 10 casse d'acqua, ne compri solo 5. Mi sembra una condotta non coerente con la legge. Diverso può essere l'onere dell'autorità di pubblica sicurezza, in presenza di fenomeni gravi di rarefazione delle merci, di emanare ordinanze, come si dice, contingibili ed urgenti, come poi sono quelle che sono state emesse tutela della salute pubblica in questo periodo, volte ad evitare fenomeni di accaparramento, la cui violazione di queste eventuali ordinanze configura un reato specifico, che è proprio quello previsto dall'articolo 650 del codice penale, cioè l'inosservanza di un provvedimento dell'autorità. E tanto è vero che in questi giorni si è reso necessario anche la rassicurazione dell'organizzazione della grande distribuzione, Federdistribuzione, che ha detto: siamo in grado assolutamente di continuare ad approvvigionare tutti i centri commerciali, i negozi, le grandi insegne, per cui diciamo che, ecco, se vogliamo proprio portarci a casa 15 kg di pomodori pelati, possiamo farli. Sai, senza che Leonardo Manera parlava della carta igienica. Ma invece io vorrei chiudere con qualcosa che ci riguarda direttamente, Deborah, sì, e riguarda però un po' tutti noi, perché nell'epoca dei social riguarda tutti, cioè la diffusione di pubblicazioni o diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico. Ho preso proprio la rubrica dell'articolo del codice penale. Qui bisogna che noi giornalisti ovviamente dobbiamo stare non attenti, ma attentissimi, e pure di più. Però anche il cittadino comune, insomma, se poi rilancia delle cose smaccatamente false o che poi si rivelano false, rischia qualcosa, Avvocato Camera? Certamente sì. Esiste una contravvenzione all'interno del codice penale, quella che lei ha letto, dell'articolo 656 del codice penale, che punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 309 euro la pubblicazione o la diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose. Attenzione, questa è una contravvenzione che può essere punita indifferentemente a titolo di dolo o colpa. Che cosa vuol dire? Non è necessario, perché si commette il reato, che uno consapevolmente diffonda una notizia falsa, esagerata o tendenziosa. Basta la negligenza, la colpa. Dunque, nel cittadino comune, anche se non è un professionista dell'informazione, qui magari spendiamo due parole a parte, bisogna stare attenti a rilanciare sui social delle notizie non verificate, le cosiddette fake, perché può essere una negligenza, anche perché nella società moderna, dove tutto diventa virale in un secondo, ci deve essere un rafforzamento del principio di responsabilità del cittadino nell'uso dei social. Dunque deve verificare un minimo la fonte, o meglio, in presenza di notizie così potenzialmente delicate, certo, delicate,